Sei la mia stella che mi dà quel che non ho. Sei essenziale per me. Ed un abbraccio forte, forte ti darò. Ti voglio bene veramente. Sei la mia stella che mi dà quel che non ho. Sei essenziale per me. Ed un abbraccio forte, forte ti darò. Ti voglio bene veramente. And now, ladies and gentlemen, go, go, go, go, go, go. Voglio bene veramente. Tutto cambia quando arrivi tu. E il cielo sembra essere più blu. Sul mare alla sera un dolce vento che ti asciuga il viso dalle lacrime. Gli errori si sono fatti e si faranno, sai. Non preoccuparti, non ti lascerò mai. Tornando a casa ti ricorderai di me. E quando ti sentivi dire che essenziale per me. Ed un abbraccio forte, forte ti darò. Ti voglio bene veramente. Sei la mia stella che mi dà quel che non ho. Sei essenziale per me.